Allora, sono ormai molte settimane che si parla sempre di coronavirus e grazie a Dio le idee cominciano a essere più chiare a tutti su cosa è giusto fare, non fare, su come bisogna comportarsi. Tutto chiaro. Per esempio, cominciamo dalle mascherine, il bene più ambito e prezioso degli ultimi mesi. Riguardo alle mascherine si è capito. Si è capito che non si è capito bene se servono, non servono, come utilizzarle. Inizialmente era stato detto dagli esperti che servivano solo agli operatori sanitari, ma erano inutili per tutti gli altri. Io andavo in giro tranquillo, senza mascherina. Poi, poco alla volta, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anche l'opinione degli esperti è cambiata, finché per esempio in Lombardia sono state rese obbligatorie per tutti. Se non c'è la mascherina va bene anche una sciarpa sulla bocca, se non c'è la sciarpa va bene anche un foulard, se non c'è il foulard va bene anche una fetta di prosciutto, purché naso e bocca siano coperti. I guanti. Ancora non ho capito se servono o non servono. Servono, secondo alcuni sì, secondo altri sono addirittura controproducenti. Resta il fatto che all'ingresso di molti negozi c'è la scritta che se non hai guanti non ti fanno entrare. Io, non sapendo se sono utili o no, ne metto uno solo. Un onorevole compromesso. Per non prendere il virus poi bisogna stare almeno a un metro di distanza dagli altri, però anche l'aria e le polveri sottili possono trasportare il virus e quindi puoi stare anche a un chilometro, ma non serve a niente. Il virus arriva ovunque se è trasportato dalle polveri sottili, secondo alcuni è così. Comunque è meglio in casa tenere le finestre aperte e far circolare l'aria, sempre ammesso che un po' di vento non ti porti in casa il virus, trasportato appunto dalle polveri sottili che sono a quanto pare cattivissime. Il virus, lo abbiamo capito, ce l'hanno detto gli esperti, si deposita anche sugli oggetti. Sì, ma per quanto? Per pochi minuti, per poche ore, per qualche giorno, per qualche settimana, per qualche lustro, per sempre. Può depositarsi anche sull'asfalto a quanto pare. Quindi, quando usciamo solo per andare a fare la spesa, per non rischiare, è meglio non mettere i piedi per terra. Casomai andiamo in giro a testa in giù, camminando con le mani, però sempre fornite di guanti che poi dobbiamo smaltire nel modo corretto, che ancora non ho capito esattamente qual è, anche perché nel mio condominio, oltre a plastica, secco eccetera, non c'è ancora il cassonetto coronavirus. I sintomi poi sono importanti. Se non hai nessun sintomo, può darsi che tu abbia il virus, ma tu sia uno dei leggendari asintomatici. Se hai pochi sintomi, può essere che tu sia uno dei pauci sintomatici, cioè con pochi sintomi. Se hai molti sintomi e problemi respiratori, hai il virus e devi chiamare il numero verde sperando che non sia troppo tardi. Se muori, infine, bisogna capire comunque se sei morto per il coronavirus o con il coronavirus. Comunque anche gli asintomatici e i pauci sintomatici possono trasmettere il virus, quindi da qui in avanti e per sempre bisognerà diffidare soprattutto di chi sta bene, l'immunità. Chi è guarito dal coronavirus dovrebbe essere immune, sì, no, almeno per un po', non si sa, boh. Allora meglio restare a casa con le finestre aperte, anzi no, socchiuse, perché se sono troppo aperte poi magari entra il virus, socchiuse ma con la zanzariera che forse un po' blocca il virus, chissà. Nel mondo infine qualcuno fa il famigerato lockdown come noi, qualcun altro come in Germania lo fa ma in modo più blando, solo che in Germania ci sono meno morti di dove si fa il lockdown più severo. Sarà che il virus un po' si spaventa dai tedeschi e preferisce altre terre, altre popolazioni? Non so. Bisognerebbe chiedere agli esperti che, grazie a Dio, in questi 2 mesi sono gli unici che possono parlare, che hanno saputo chiarire ogni nostro dubbio, gli esperti. E adesso, per fortuna, tutto mi è più chiaro. Quasi tutto, anzi, quasi niente. Allora, c'è una grande assente in questa pandemia. La grande assente non è solo la chiarezza, non è solo la prospettiva economica del nostro paese, non è solo la mascherina che ancora in tante farmacie si fa fatica a reperire. La grande assente da parte delle classi dirigenti del nostro paese è l'empatia. Quotidianamente o quasi ci vengono forniti numeri che raccontano i nuovi contagi, di nuovi morti, di città vuote e spettrali, di saracinesche abbassate, di terapie intensive, di cittadini che non possono più muoversi da casa e che, se si muovono per arrivare a 300 invece che a 200 metri da casa, vengono inseguiti come pericolosi latitanti. Ma in tutto questo, in tutti questi numeri che vengono quotidianamente snocciolati, non c'è mai traccia di empatia. Gli scienziati virologi, pur fondamentali in questa fase, sono sicuramente preparati in materia, anche se spesso tra di loro hanno opinioni contrastanti, ma nelle loro parole, nelle loro espressioni non c'è mai traccia di empatia, di comprensione per le difficoltà che tutti noi stiamo passando. Nelle conferenze stampa i numeri vengono dati con più o meno precisioni, i decreti prorogano il lockdown, che si potrebbe anche tradurre con morte civile, se non fosse che in questa pandemia i morti ci sono davvero, ma una parola di prospettiva, di conforto, di aiuto è raro scorgerla. Eppure sono in tanti quelli che hanno perso tutto, non solo parenti, anche lavoro, prospettive di lavoro, affetti, progetti. Ma se qualcuno osa dire poi che vorrebbe tornare alla normalità, viene visto dagli esperti come un untore condannato senza appello in nome delle ragioni della scienza. Io credo che ad alcuni di questi esperti, di questi dirigenti del nostro paese, andrebbe insegnato forse che in certi casi un po' di empatia aiuta ad accettare anche le situazioni più difficili e le privazioni che stiamo sopportando. L'unica cosa che ci è stata data per sopportare la reclusione domiciliare sono stati gli appelli di qualche personaggio noto che ci diceva allegramente di stare a casa e quanto è bello stare a casa. Ci veniva detto in alcuni casi in modo così fastidioso che non appena li sentivo mi veniva voglia di uscire. Invece al posto dell'empatia troppo spesso ci veniva fornito panico, pensando che fosse quello il modo migliore per tenerci a casa, spaventandoci come bambini. Avrei voluto sentire parole diverse. Oltre al panico, o anche semplicemente alla legittima preoccupazione, avrei voluto sentire storie di chi magari è guarito stando a casa con le cure dei medici di base, per dare anche un senso di fiducia e di ottimismo. Avrei voluto sentire scienziati che, con occhi diversi, parlavano in tono umano di un problema che è umano. Avrei voluto, ma non è successo. Da tutte le trasmissioni abbiamo sentito solo uno state a casa con lo stesso tono che avrebbe potuto avere un robot, mentre quelli che ascoltavano le proprie abitazioni, magari di 40-50 metri quadri, erano tutti uomini e donne. Siamo uomini e donne. E probabilmente il senso di appartenenza a un paese si costruisce anche con un po' di naturale empatia e non con la retorica di qualche canzone cantata una tantum dai balconi prima di ritirarsi in casa a preoccuparsi da soli del proprio futuro. Il problema sarà come gestire i figli a luglio e agosto se, come immagino, non ci sarà ancora piena libertà di circolazione. Si potrà forse fare una passeggiata, ma presumibilmente sarà ancora vietato fare quello che d'estate è la regola, cioè fare assembramenti. D'estate gli assembramenti, bruttissima parola che però ormai tutti conosciamo, sono la regola. Assembramenti lungo i viaggi nelle aree di servizio per impadronirsi di un panino. Assembramenti sulle spiagge per fare l'acqua gym, assembramenti ai buffet per essere i primi a conquistare il palombo alla griglia, assembramenti in discoteca per provarci con le cubiste, ma anche tra i bambini, assembramenti di bimbi in piscina, assembramenti per fare sport, assembramenti di sera per l'infausta baby dance. Insomma, la parola assembramento potrebbe essere usata anche come sinonimo di estate. Ma per quanto riguarda i bambini, quelli piccoli, il problema è che gli assembramenti sono inevitabili. Il bambino va dove c'è vita, dove c'è azione, e non c'è nessuna raccomandazione che possa tenerlo lontano dal gruppo. Per capirlo basta vedere i bambini piccoli giocare a pallone. Vanno tutti indistintamente dove c'è la palla, saltano le posizioni, saltano i ruoli. I bambini vedono la palla e si buttano tutti lì intorno, come api sul miele o come l'orso Yogi intorno al cestino della merenda, e non c'è niente da fare per impedire loro di farlo. Perciò immaginate se la prossima estate saremo costretti ad andare in spiaggia, magari dentro ai famigerati box in plexiglass, in quella specie di prigione trasparente, con i bimbi piccoli che urleranno tutto il tempo per riunirsi ai bimbi che vedono negli altri box, gridando, urlando, piangendo, chiedendosi perché devono essere sottoposti a quella terribile tortura. Inizialmente proverà il padre a giocare col bimbo, magari a biglie, ma il bimbo rifiuterà quel gioco, ricordo di un'infanzia, di un'Italia che non c'è più. Poi il padre comincerà a sbuffare più del figlio, lamentandosi a voce non altissima, ma abbastanza per farsi sentire dalla moglie. Moglie che a quel punto subentrerà nella situazione, dicendo al marito un po' stizzita: «Vai, vai pure a fare il bagno, ci penso io». parole apparentemente innocue, ma nelle quali si coglie un disprezzo senza ritorno. La moglie proverà a sua volta a tenere a bada il o i figli, anche lei però con scarsi risultati. Dopo pochi minuti cederà, anche psicologicamente, e consegnerà al figlio il telefono, ancora di salvezza, ma anche zavorra di sensi di colpa per i genitori. Arriverà poi la sera, col figlio stremato per il calore che inevitabilmente si sarà sviluppato dentro al box di plexiglass. Un po' di febbre, qualche pianto e soprattutto il muro di silenzio della moglie, che sarà ormai giunta a disprezzare profondamente il marito. Il ritorno a casa non risolverà la situazione, perché si sarà ancora costretti a una specie di convivenza forzata, seppure meno pesante di quella che stiamo vivendo adesso. Insomma, d'estate spesso nascono nuovi amori. La prossima estate probabilmente bisognerà rimandare, ma tra due stati di amori ne nasceranno molti di più, perché presumibilmente ci saranno molte più persone libere, tutte quelle che non avranno retto al devastante impatto dell'imminente agosto da coronavirus, in cui, oltre all'incertezza per il futuro, dovremo anche subire la certezza dell'afa, non solo fisica ma soprattutto mentale. Però ne usciremo anche dall'estate, single probabilmente, ma ne usciremo. Per un attimo ci avevo creduto come più o meno tutti gridavano entusiasti al ritorno delle competenze. Dopo anni in cui si diceva potevamo parlare tutti di tutto senza cognizione di causa, adesso invece a causa del coronavirus finalmente si poteva assistere a un ritorno delle competenze dove gli unici titolari a spiegare la situazione erano i laureati in materie adatte, infettivologi, virologi e così via. E pensavamo anche che ci fosse in qualche modo uniformità di vedute e che i toni potessero essere più civili di quelli che per anni siamo stati obbligati a sopportare nei vari talk show televisivi. Nei talk show televisivi pre-coronavirus c'era sempre qualcuno che la sparava grossa, immediatamente premiato dagli applausi che venivano scatenati dall'animatore di studio. E noi lì, proni spettatori, a pensare quanto sarebbe stato bello assistere a dibattiti portati avanti da qualcuno che, senza litigare, potesse spiegarci bene la situazione. Ma sapevamo che era una specie di miraggio, un evento irrealizzabile, come la San Benedettese che vince lo scudetto. Puoi anche sperarci, ma si sa che non succederà mai. Poi è arrivato il coronavirus, prima timidamente in Cina, e ancora la voce principale era quella dei politici. Poi però il virus è sbarcato silenziosamente in Italia e più rumorosamente è approdato a Codogno. E insieme alla preoccupazione abbiamo avuto però il sollievo di pensare che dal punto di vista sanitario i virologi avrebbero saputo dare un esempio di sobrietà e anche di chiarezza. Non lo sapevamo, ma stavamo coltivando un altro miraggio, come pensare che Scarlett Johansson domani mi manda una mail per chiedermi di convivere con me in piazza Udine. Sì, perché in effetti i virologi sono arrivati prima timidamente, in pochi, ma poi sono sbarcati numerosi in tutte le TV, più numerosi delle mascherine che non si trovavano. Inizialmente abbiamo cercato di capire, di comprendere. Finalmente avevamo qualcuno in cui credere. Dopo aver affidato le nostre giornate televisive ai tronisti di Uomini e Donne, trasmissione che tra l'altro adesso è ricominciata in quanto servizio essenziale, ora ci sentivamo anche più soddisfatti perché stavamo dando retta a un laureato, ci stavamo in qualche modo affidando alla scienza più che al cazzeggio. Eravamo anche più gratificati, come uno che alla fine di un libro si sente più intelligente se ha letto Umberto Eco e non, per dire, Fabio Volo. Ha forse faticato di più, ma all'ultima pagina si sente premiato. E così abbiamo fatto coi virologi, ci siamo messi ad ascoltarli, immaginando che fossero esenti dai comuni vizi umani e che soprattutto potessero avere le idee molto, molto, molto più chiare di noi. Abbiamo scoperto che però anche i virologi non sempre sanno reagire con pacatezza alle luci della ribalta e che anche per loro la vanità è proprio lì, dietro l'angolo, come un tombino in cui puoi precipitare in un attimo. A causa loro abbiamo rivalutato anche i comportamenti di Tina Cipollari, per dire, che virologa non è. Abbiamo scoperto che è rarissimo trovare due virologi che la pensano allo stesso modo, anche se sono laureati nella stessa materia, come due tifosi della stessa squadra che però la pensano in modo diverso sul campionato. E soprattutto abbiamo scoperto che anche ai virologi piace punzecchiarsi, delegittimarsi, scornarsi. Non so se tutto questo è rassicurante o preoccupante per noi comuni mortali non addentro ai segreti della scienza. La cosa certa però è che una volta tornata alla normalità potremo ritrovare alcuni virologi ormai star del piccolo schermo protagonisti di qualche nuovo format televisivo che potrebbe chiamarsi, chissà, invece il grande fratello VIP, il grande fratello VIR, dove VIR è il diminutivo di virologo. Sarebbe il segnale che il coronavirus si è ritirato e che potremmo tornare alla solita vita di sempre, anche se inevitabilmente con qualche virologo in più. Tra i tanti settori che stanno soffrendo in questi mesi di coronavirus c'è anche il mio, quello che riguarda lo spettacolo dal vivo. Non riguarda le grandi star che evidentemente hanno messo da parte abbastanza denaro per poter vivere serenamente anche senza salire sul palco. Riguarda tutti quelli che dallo spettacolo ricavano il necessario per vivere mese per mese, l'equivalente di uno stipendio che adesso non c'è più. Sembra che tutto il settore riguardi più o meno 300.000 persone, quindi numeri non trascurabili. Quello che fa più male però è che nonostante il numero degli addetti sia elevato, in fondo molti pensano sempre che lo spettacolo, e nello specifico fare poi spettacolo, non sia un vero lavoro. Succede spesso di sentirsi chiedere, sì, ma come lavoro vero cosa fai? Oppure, oltre a dire cretinate sul palco, cosa fai? Insomma, molti di noi vengono considerati degli sbandati che si sono dedicati allo spettacolo solo perché spacciare stupefacenti poteva essere più pericoloso, anche se più proficuo. Insomma, creare invece uno spettacolo di un'ora e mezza dal vivo, come quasi tutti noi comici facciamo, è molto faticoso e richiede diverse fasi. La prima è avere una idea, avere una buona idea possibilmente. Le idee sono merce rarissima e averne una buona è ancora più complicato. Per averne una di solito si comincia a gironzolare avanti e indietro per casa apparentemente senza costrutto. Se si convive, chi sta con te pensa che tu sia sicuramente un perditempo, si indispettisce e comincia a valutare di fidanzarsi con altri che fanno lavori più concreti. Combinando poco in casa, di solito per avere una buona idea si esce a camminare, questo quando ancora lo si poteva fare. Camminando alla ricerca di un'idea si bevono lungo il tragitto 2-3 caffè, quindi la ricerca di una buona idea causa gastriti che andranno successivamente curate con inibitori di pompa protonica, comunemente detti gastroprotettori. Una volta avuta l'idea si comincia a scrivere anche con un certo entusiasmo, poi si prova di fronte a parenti e amici. Di regola all'inizio quasi nessuno ride. Quindi si butta via quanto si è scritto, si ricomincia da capo e si litiga con parenti e amici rimanendo soli e privi di affetto. Quindi avere una buona idea causa spesso solitudine. Infine, dopo diversi mesi di travaglio e di isolamento e ripensamenti, si giunge al parto dello spettacolo e si prova la prima volta davanti al pubblico. Se lo spettacolo va bene, si torna a casa felici e dopo mesi si fa l'amore con la fidanzata. Il problema è che la prima volta lo spettacolo non va mai troppo bene. Se non va bene, si finisce in un vortice di malinconia senza fine e la fidanzata chatta apertamente davanti a te con altri uomini che fanno lavori normali, in bianchini, impiegati, addetti allo stoccaggio. Ma ammettiamo che vada bene, la fidanzata ride la prima volta, poi torna con te a vedere lo spettacolo e ride meno. La terza volta ripete stancamente le battute chiedendosi perché gli altri ridono. La quarta volta resta a casa a chattare con altri uomini che fanno lavori normali, in bianchini, impiegati, addetti allo stoccaggio. Infine sceglie uno di loro. Quindi avere una buona idea fa tornare single e di conseguenza fa ricorrere alla prostituzione, che tra l'altro è anche costosa. Insomma, in definitiva il saldo è quasi sempre negativo, eppure lo facciamo per passione e perché ci crediamo. E vorremmo che tutti pensassero che è un lavoro e che quindi merita lo stesso rispetto degli altri, per esempio in bianchini, impiegati, addetti allo stoccaggio, che magari in questo momento stanno anche con le nostre ex.